Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Parleremo oggi chiaramente anche di alcune valutazioni sulla manovra, ieri l'abbiamo ampiamente commentata. Parleremo anche di Cina, è un po' che non lo facciamo se non nelle notizie in breve, ricordando che uno degli elementi di incertezza a livello di crescita economica mondiale è proprio il rallentamento economico della Cina. Perché lo facciamo oggi? Perché è uscito il dato sul terzo trimestre del PIL cinese, più 6,7% su base annua, più 1,8%. È abbastanza in linea con le attese del governo, che ha fissato una crescita tra il 6,5% e il 7%. Però parliamo di Cina anche perché la Commissione europea oggi è intervenuta e ha detto che gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione devono essere imperativamente aggiornati, rafforzati e resi giuridicamente più solidi. Il vertice europeo domani e venerdì, ma su questo c'è anche tutto il tema legato al WTO e alla sovracapacità sul fronte acciaio. Perché lo dico? Perché il vicepresidente per la crescita della Commissione europea, Erkki Katainen, nel presentare il nuovo approccio di politica commerciale ha eliminato il vecchio sistema basato sulla lista dei paesi e economie di mercato a cui non imporre dazi, in quanto ha detto non sappiamo in futuro da dove la minaccia potrà arrivare. Conseguenza, la sovracapacità produttiva, dice lo stesso Katainen, è il cancro del commercio mondiale e nel caso specifico nell'acciaio l'applicazione di un dazio minore sarà rivisto ed esaminato caso per caso. Anche di questo parleremo anche appunto di qualche commento alla manovra sulla parte che fa più discutere, ossia l'utilizzo dei contanti, perché anche un esponente del PD come Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio alla Camera, ha detto se la manovra sarà così come annunciata inevitabilmente il Parlamento la cambierà. Il rischio è che si parli di lavaggio di denaro nero, che questo sia un condono. A cosa è il riferimento? È alla parte che nella voluntary disclosure, quindi la dichiarazione volontaria che fino adesso ha sempre riguardato i capitali illecitamente detenuti all'estero, sarebbe applicata secondo la legge di stabilità presentata, si applicherebbe anche ai contanti illecitamente detenuti in Italia. Ora, qual è il rischio? Lo dicevamo anche ieri. Insomma, il rischio fortissimo è che al di là del sanare il singolo cittadino che ha dei contanti in cassetta di sicurezza o sotto materasso, non mi interessa, frutto di nero, perché di questo stiamo parlando, perché se tu li hai come frutto di diciamo attività lecita puoi tenere tutti i contanti che vuoi, non è questo il problema, ma frutto di nero, beh, che dentro ci si infili la criminalità, inutile girarci attorno. E quindi che possa sembrare un lavaggio di denaro, anche perché stante quello che abbiamo letto nella legge di stabilità, uno potrebbe far emergere questi soldi pagando un'aliquota dal 33%, se ben ricordo, il 32-35%. Per carità, l'aliquota non è bassa, ma il problema è capire. Uno mi può fare lo stesso ragionamento anche per i soldi depositati all'estero. Sì, c'è chi l'ha fatto, però diciamo, non si era mai arrivati a sanare anche il nero in Italia. Il fronte dei soldi depositati all'estero sappiamo che si trascinava da tantissimi anni, era frutto di un nero che data diciamo dagli anni 70 almeno in poi, e prima Tremonti noi criticammo l'aliquota molto bassa, 2,5% la prima volta con lo scudo fiscale, poi il 5%, e poi la voluntary disclosure sulla falsa riga di quello che hanno fatto tutti, che hanno fatto molti altri paesi, andava nella direzione di dire va bene, sappiamo che ci sono questi soldi all'estero, tu regolarizzali o tenendoli all'estero o portali in Italia, ti diamo questa finestra. Il problema è che adesso si estenderebbe anche ai contanti, allora, o tu lo limiti a un tetto di contante, questa però è la mia opinione, nel senso che per esempio Boccia dice che non c'è un tetto accettabile, ma dice almeno altro sarebbe se ne venisse fissato uno e l'aliquota fosse alzata. Cosa vuol dire? Vuol dire che tu dici fino a 50.000 euro, faccio per dire una cifra, fino a 100.000 euro io te lo posso anche con un'aliquota alta far emergere, non posso però fare la stessa operazione per cifre enormi, perché lì non è solo il tema del singolo, lì il rischio è fortissimo che ci sia la criminalità organizzata. Non possiamo scherzare su queste cose. E ancora, per quello che riguarda invece la voluntary, io da qui partirei fra un attimo, perché c'è anche la dichiarazione del ministro Padoan, abbiamo sentito invece anche alcuni tributaristi a alcuni intermediari, cioè mi riferisco a intermediari in questo caso assolutamente leciti, come il mondo dei commercialisti. Quindi Cina, voluntary disclosure nella nuova formula proposta dal governo, appunto la legge di stabilità deve passare poi il vaglio del Parlamento. Il commercio mondiale e la vicenda cinese in realtà si apre, come anticipavo, anche un altro tema, che è il mondo dell'acciaio, nel senso che Bruxelles sta cercando, c'è un tavolo appunto in cui si dovrebbe consentire di far fronte a effetti indesiderati derivanti dall'apertura del mercato europeo alla Cina. Ricordo che lo scorso 7 ottobre Bruxelles ha deciso un dazio, ma è provvisorio, tra il 13 e il 22% sull'acciaio proveniente dalla Cina, che sale al 70% nel caso dei prodotti piani, le lamiere per esempio da treno. È un provvedimento di cui beneficeranno anche imprese italiane, penso all'Ilva di Taranto o al gruppo Arvedi, ed è seguito a una denuncia di carattere europeo, cioè tutti i produttori siderurgici europei si sono messi insieme per, si chiama Eurofer l'associazione, per porre questa denuncia. Il rischio qual è? Appunto di essere inondati dalla sovracapacità produttiva che ha la Cina. Ultimo tema, ma non per ultimo, nel senso che lo affronteremo nella seconda ora, e mi riferisco al Lender Schiaparelli. Da quello che anche i nostri GR24 ci hanno detto, sappiamo che Marte non è dietro l'angolo, e quindi tempo che il segnale arrivi da Marte sulla Terra per dirci che tutto è andato bene dovrebbero essere 18:33 ora italiana. Alle 16:48 era previsto l'atterraggio. Da quello in questo momento non si può sapere nulla, perché appunto c'è un tempo tecnico per il segnale. Ma perché ne parliamo a Focus Economia? Perché è la prima volta, qualcuno ricorderà Armstrong quando disse un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità sbarcando sulla Luna. Ecco, noi possiamo dire che è un piccolo passo per l'uomo ma un grande passo per l'Europa, nel senso che la missione ExoMars è stata tutta gestita dall'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, e dalla Russia. Seconda fase prevista nel 2020. All'interno della gestione europea c'è una fortissima presenza di tecnologia italiana. Ogni tanto dobbiamo anche riconoscere quando abbiamo punti e campi di eccellenza, e ne abbiamo. E non solo nel classico Made in Italy, importantissimo, ma non solo lì. Tutto, diciamo, la tecnologia italiana lì presente la racconteremo, perché c'è, per esempio, il lavoro fatto dal CISAS di Padova, che è il centro di Ateneo di Studi di Attività Spaziali Giuseppe Colombo, per ricostruire traiettorie, profilo di temperatura e tutto quello che poi sono le componentistiche dentro la sonda. Ne parleremo anche ascoltando chi ha partecipato, per esempio il gruppo Finmeccanica, il contributo, il gruppo Thales Alenia Space, anche da questo punto di vista, e poi anche ascoltando l'Agenzia Spaziale Italiana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. La pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo molti messaggi. Adesso arriviamo anche alla borsa, ci mancherebbe. Allora, la borsa guadagna lo 0,60% a Milano, lo 0,30% a Parigi, lo 0,14% a Francoforte e lo 0,40% a Londra. Il Dow Jones più 0,35%, euro sempre sotto quota 1,1 a 1,09. E i titoli, oggi devo dire, al di là di Monte dei Paschi e Popolare Emilia Romagna come ieri, e Saipem, i movimenti sono più contenuti. Monte dei Paschi più 7,40, Pop Emilia Romagna più 5,20, Saipem più 4%, Mediobanca più 3,20, Unipol più 2,60, Ubibanca più 2,5, Poste Italiane più 1,80. Contenuti cali, dicevo, Exor meno 1,20, Prismian meno 1%, Terna meno 0,70%. Allora, a proposito del Monte dei Paschi di Siena, ieri abbiamo avuto un approfondimento apposito, il piano Passera, poi dopo il Consiglio di Amministrazione che è durato più di 8 ore, l'amministratore legato del Monte dei Paschi, Marco Morelli, ha detto con il piano parleremo, quindi parleremo con Corrado Passera, e l'ex ministro dello sviluppo economico all'uscita dalla Consob ha detto il piano di salvataggio di Monte dei Paschi, se va come deve andare, può essere un progetto bellissimo, l'Italia potrebbe uscirne alla grande, è questo che mi stimola. Però faccio notare una cosa, un'intervista fatta da Alessandro Profumo ieri e da Giovanni Floris nel corso della trasmissione di martedì. Perché? Perché la telefonata con cui il ministro del Tesoro Piercarlo Padoan ha chiesto all'ex amministratore delegato di Monte dei Paschi Fabrizio Viola di farsi da parte, confermata da tutti, confermata dallo stesso Fabrizio Viola, nel senso. Allora, questa telefonata non è normale che succeda, ha detto Profumo, ma certamente non è nemmeno normale che una banca abbia bisogno di JP Morgan per chiudere l'aumento. E poi ha continuato ad essere un Profumo che parla da ex, chiaramente, se Monte dei Paschi non chiude l'aumento di capitale, lei come si può sentire? Uno può condividere o non condividerlo, ma il rischio di che JP Morgan si tiri indietro è talmente alto che nessuno di noi avrebbe corso quel rischio. Poi è stato chiesto, ma lei si sarebbe dimesso come Viola? Assolutamente sì, perché è il ministro del tesoro che te lo chiede. Ma c'è un aspetto che voglio farvi ascoltare e riguarda un riferimento abbastanza esplicito alla massoneria. Non giriamoci attorno, sappiamo che la massoneria esiste, non quella legale, diciamo, ma esistono anche inchieste della magistratura, penso alla Calabria, ma non solo, nel rapporto tra massoneria e criminalità organizzata, logge deviate, come si possono chiamare. E sappiamo che la massoneria in Toscana, diciamo, ha da sempre, storicamente, ma non è una cosa che dico, una cosa nuova, una sua terra d'elezione dal Risorgimento in poi, no? E anche forse prima del Risorgimento. Perché lo dico? Perché a un certo momento a Profumo viene chiesto, ma lei ha avuto il sentore di massoneria? Insomma, sentite la risposta che ha dato ieri a Giovanni Floris. Purtroppo quando vedo dei fenomeni che non riesco a spiegarmi e vedo dei legami fra persone che non riesco a spiegarmi, parlo della massoneria, poi possiamo parlare di altro, però quando sono purtroppo un animale razionale e faccio fatica a capire alcune cose. Quando ci sono troppe cose che non riesco ma a spiegare. Ma ha un nome e cognome la massoneria, no, a Siena? No, nella sua esperienza. Cosa vedeva? Sì, non, ce la racconti la massoneria? No, beh, vedevo e ho visto, ad esempio, delle scelte di persone basate su motivi che non riuscivo a capire. Cioè, lei eliminava la competenza, il merito, magari rimaneva solo la massoneria, diciamo. Ci arrivava per eliminazione. Restavano le appartenenze. In genere si pensa, quando si parla di Siena, che le appartenenze fossero quelle verso il vecchio Partito Comunista, poi scavi e scopri che c'era una trasversalità, ad esempio. Allora dici, ma come mai c'è questa trasversalità? Qualcuno che è venuto da me mi ha detto, guarda, io sono massone, non c'è mai stato, no? Che valore aggiunto ti dà Flavio Carboni che non è nel Consiglio di Amministrazione? Che valore aggiunto dà? Non lo so, evidentemente darà dei valori aggiunti di legami, di introduzione ad altre persone e così via. Non fa una piega il ragionamento di Profumo, cioè se tu non hai altri motivi razionali per giustificarti perché alcune persone vengono tenute in considerazione e lì vai a parare, eh? Adesso speriamo che tutto vada bene dopo questa nostra dichiarazione, ma insomma la storia del fallimento della più vecchia banca al mondo, il Monte dei Paschi, lo dico a chi sta scrivendo, è ancora tutta da scrivere, vedremo come si difenderanno Mussari & Company, Mussari & Baldassarri, però dai, adesso che nessuno potesse sapere fino al momento in cui scoppia il crack e dai. Allora, ci chiede Sole 24 Ore, guardate, da quando siamo diventati anche noi notizia per i conti e per le inchieste non abbiamo mai nascosto né nel GR24 né in questo programma. Oggi c'è stata su indicazione della Consob, perché ci sono due denunce della Consob, il titolo Sole 24 Ore quotato in borsa, c'è stata un'ispezione qui alla sede Sole 24 Ore da parte della Guardia di Finanza. E c'è stata una nota anche del gruppo che in merito all'ispezione della Consob ha detto: massima trasparenza, massima tranquillità, massima collaborazione, siamo un libro aperto. Allora, andiamo sul primo tema, la voluntary disclosure. Poi dirò qualcosa anche su questa, diciamo così, abitudine italiana all'uso dei contanti. Anche qui, massimo rispetto per chi preferisce i contanti, la carta di credito, io non ho mai capito bene perché. Ma, nel senso che sei più a rischio quando giri col portafoglio pieno di contanti, se lo perdi, se te lo rubano o quant'altro. La carta di credito la blocchi e sei anche garantito. Ma detto questo, il mondo è bello perché è vario, perché è libero, e quindi uno vuole giocare con i contanti, uno vuole usare il banco, ma tu non vuoi usare solo la carta di credito, fatti i suoi. Quello che però non possiamo raccontarci, visto che abbiamo appena parlato di massoneria, di criminalità e di mafia, cioè diciamocele chiare le cose, l'utilizzo dei contanti in Italia è così alto che non si può non parlare anche di una quota di nero che, diciamo, giustifica questi contanti, perché noi siamo il paese che in assoluto usa più contanti. Uno può dire siamo più arretrati, ho capito, ma non può essere solo questo, perché poi sugli smartphone siamo modernissimi. Allora, noi usiamo i contanti per l'87% degli scambi. Nascosti al fisco si stima 150 miliardi di euro, per buona parte parcheggiati in cassette di sicurezza all'estero. Pensate al 2014, le banche consegnarono banconote da 500 euro per 83 milioni, ma nello stesso anno furono versate banconote da 500 euro per 9 miliardi. Cosa c'entra la banconota da 500 euro? Ve lo dicevo in tempi non sospetti. È la banconota perfetta per chi deve esportare illegalmente capitali, la banconota perfetta per la mafia, per le criminalità, per i grandi evasori, no? Con 500 euro. Io non penso che nessun altro di noi nell'agire quotidiano abbia avuto tutto sto bisogno di 500 euro. Casomai te ne fai dare 5 da 100, no? Non è che cambi molto se devi pagare. Oppure devi pagare in nero, non tracciabile, o devi portare i soldi fuori, non tracciabili. Ecco perché è delicatissimo il tema della volontaria disclosure per come l'ha presentata il governo. Perché, ripeto, un conto è riallargare la finestra di chi ha i capitali all'estero. Un conto è dire, vabbè, l'allarghiamo anche al contante in nero, cioè illegalmente detenuto in Italia. Il ministro Padoan ieri ha detto: non è per coprire reati, per quelli c'è la galera, la volontaria è solo se i soldi nascosti sono stati evasi. Si invitano i cittadini che hanno risparmi all'estero, per esempio, ma anche in Italia, che sono occulti oppure sono depositati in banche estere, a rivelare questa loro ricchezza, mettersi in regola con il fisco, pagare le tasse dovute, pagare gli interessi dovuti, non pagare le sanzioni, non pagare gli interessi di mora. Se per caso quei soldi sono frutti di un'attività illecita dal punto di vista penale, questo signore non solo non potrà aderire alla volontà, rimandrà in galera. Allora, su questo vedo molti che scrivono: ma i negozi, non sappiamo tutti il problema. Guardate, insomma, chi vi parla, che paga anche i taxi con la carta, sa benissimo che quando arrivi a Roma iniziano ad essere uno su due. Quando arrivi a Napoli, non lo dico per fare dei luoghi comuni, perché mi è effettivamente successo, e i taxi che accettano la carta di credito incredibilmente spariscono e svaniscono. E dato di fatto empirico, nella mia esperienza, sono molto più presenti i taxi con la carta di credito nel centro-nord del paese. A Napoli non ne trovi uno, a meno che tu non stia lì 20-30 minuti a aspettare e loro non si mettano d'accordo. E quello si chiama nero, non si chiama in altro modo. Poi mi scrivono alcuni ascoltatori: ma sono le commissioni. A parte il fatto che prese il prezzo delle commissioni su quello che è il prezzo della corsa, ma voglio dire, dai, Non ci giriamo attorno. Il vero vantaggio è che tu puoi non dichiarare niente, ma vale per i commercianti, vale per tutto il mondo o i ristoranti in cui improvvisamente la carta, il POS è sempre rotto, non funziona, è staccato, abbiamo problemi anche lì, con certe connotazioni abbastanza regionali. Vediamo che cosa è, qual è il giudizio di questa voluntary disclosure per quello che riguarda intanto le cifre stimate. Nel 2015 si tratta di regolarizzare la propria posizione, già si è stato fatto nel 2015 con il fisco, si riportano in loco capitali detenuti all'estero. Il problema sono gli incentivi, perché la Voluntary numero uno, la prima, ha avuto successo per la caduta del segreto bancario svizzero. Ricorderete la polemica, la Svizzera sulla lista grigia, nera, poi grigia, le polemiche con gli Stati Uniti, con la Germania. Ecco, qui gli incentivi sono meno chiari e, come ha spiegato la nostra Livia Zancaner, il tributarista Tommaso Di Tanno. Nella Voluntary 1 l'incentivo principale non è venuto dall'azione dell'Agenzia delle Entrate italiana, ma è venuta dalla modifica della legge svizzera. Oggi per la Voluntary 2, quando si dice che si punta ai capitali posseduti in Italia, badi bene che la Voluntary 1 si applicava sia ai capitali posseduti all'estero che a quelli posseduti in Italia, quindi da questo punto di vista non c'è nessuna modifica, solo che la parte italiana della Voluntary 1 di fatto non è stata utilizzata, mi risulta che sia stata utilizzata mi pare per 1 miliardo 60 miliardi che sono stati dichiarati, quindi diciamo i 59 sessantesimi della Voluntary 1 vengono dall'estero e di questi 59 sessantesimi l'85% viene dalla Svizzera. E secondo lei perché l'hanno riproposta? Cioè perché questa volta dovrebbe avere successo? È giusto tentare di recuperare questi capitali nascosti in Italia, salvo che per recuperare questi capitali nascosti in Italia occorre che chi li ha in Italia si senta sufficientemente minacciato e non mi pare che chi li ha in Italia si sente sufficientemente minacciato, cioè non vedo né azioni dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, né vedo normative nuove che modifichino il quadro esistente l'anno scorso. Altro giudizio, quello del commercialista Stefano Noro, perché dice insomma a noi alcuni dei miei colleghi si stanno già muovendo, stanno già prendendo contatti. Da lunedì scorso stiamo già ricevendo delle telefonate da intermediari e banche estere, perché ci sono ancora delle posizioni che devono essere regolarizzate. Potrebbe essere interessante il forfè di cui si vocifera pari al 30-35%, in quanto questo, soprattutto se la misura della percentuale fosse più verso il 30 che verso il 35, potrebbe permettere di regolarizzare anche gli apporti eseguiti negli anni recenti con un risparmio rispetto alle aliquote e alle sanzioni ordinarie. E su questo e anche sulla dichiarazione pesante di Boccia, intesa come Francesco Boccia, Presidente della Commissione Bilancio alla Camera, che ha detto se ce la presentano così in Parlamento la cambiamo, e su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Intorno alla nuova edizione della Voluntary Disclosure si è sollevato un gran polverone. La Voluntary è la procedura che serve per far emergere i capitali che sono stati illegalmente portati all'estero, in genere in paesi non trasparenti dal punto di vista fiscale. Si tratta di una forma di regolarizzazione che non è corretto assimilare a un condono, perché per ripulire questi capitali bisogna pagare per intero le imposte evase e le sanzioni amministrative. C'è invece un beneficio dal punto di vista delle sanzioni penali tributarie, mentre restano i reati più gravi come il riciclaggio. La polemica è esplosa perché la nuova edizione della Voluntary renderebbe più facile e meno costoso regolarizzare i capitali in contanti, ma anche gioielli, opere d'arte detenuti in Italia, conservati per esempio nei caveau delle banche e frutto di evasione fiscale. Però qui bisogna essere chiari, perché un conto, come è accaduto con la Voluntary Disclosure, è consentire una sanatoria pretendendo però il pagamento di tutti gli importi, di tutte le sanzioni evase. Un altro conto è, come sembra accadere invece sui guadagni in nero conservati in Italia, è proporre un sistema di pagamento a forfè che, se anche non è giusto, corretto definire un condono fiscale, certamente è una cosa che molto gli assomiglia. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, vedo molti messaggi su questo, poi andiamo verso il metodo, la pubblicità. So benissimo che quando si parla con la partita IVA, abbiamo toccato il tema molte volte, sul contrasto all'evasione, renderla non conveniente, poter scaricare alcune spese, se no è ovvio che ti viene presentata una fattura in un certo modo, o invece sei in contante è del 20, 30, 40% anche più bassa. Lo so benissimo, infatti su questo io trovo due contraddizioni nel governo. E poi vengo anche a chi mi sta rompendo le scatole su Sole 24 Ore, visto che la notizia l'abbiamo data, una cosa per volta. Allora, la prima è che tutto quello che vuoi, però se non ricordo male fu proprio il governo nell'ultima manovra, la manovra precedente, ad alzare il limite all'uso del contante. Allora qua dobbiamo deciderci, però facciamo una politica per cui si incentiva l'uso della carta di credito o del bancomat, si vanno a rinegoziare con i commercianti, con le banche, le commissioni che per alcuni commercianti sono alte, e probabilmente hanno ragione, mi scrive un tassista, dice: guardi, io ho gli studi di settore, lei da querela, non siamo a studio di settore, sì vabbè, 12 anni di posto sul mio taxi mi sono costati a Roma più di 2000 euro tra commissioni, multe, noleggio e acquisto, sono 170 euro all'anno, fosse solo questo potremmo anche dire che vabbè, li paghiamo anche in banca per l'amministrazione bancaria. Il problema è lo Stato italiano, e quindi il governo, che messaggio vuole dare? Aumentiamo il limite all'utilizzo dei contanti, cosa che è stata fatta e noi l'abbiamo criticata e stracriticata, incentiviamo invece, riducendo, trovando degli accordi con le banche, le commissioni interbancarie, la commissione per l'utilizzo delle carte di credito, la rendiamo obbligatoria su alcune spese ma con una sanzione, ma la sanzione manca. E questo a me non piace dell'atteggiamento del governo, non si capisce quale cavolo sia la linea sul fronte nero ed evasione fiscale, nero ed evasione fiscale, al di là di sto referendum, ok? Allora, il Sole 24 Ore, ma lei pensi ai conti del Sole prima di parlare? Guardate, una cosa ve la dico tranquillamente, noi le notizie le diamo, poi delle volte le diamo male, le capiamo male, questo può essere umano, delle volte magari ci sfuggono, ma sul Sole 24 Ore devo dire che come variazione di borsa e come notizia l'abbiamo data. Quello che non accetto, però, abbiate pazienza, e voi potete criticare chi parla o Radio 24. Se i giornalisti hanno sbagliato la notizia, e ci arrivano segnalazioni ogni giorno, giusto o sbagliate, se chi vi parla ha detto un'imprecisione, non si è fatto capire, lo ritenete fazioso, per carità, siamo tutti in democrazia, ma quello su cui non potete rompermi le palle è sulla gestione di un gruppo quotato in borsa, perché io faccio giornalista, come fanno i giornalisti i miei colleghi a Radio 24, che saranno bravi o dei cani come giornalisti, ma non fanno i manager. E quindi su questo, oltre che dare le notizie, no, perché dopo 10 giorni mi sono rotto le palle anch'io, basta, perché se la tua azienda ha uno che mi riempie di insulti, fa un rosso o gli sta male, io non me la prendo con il dipendente, me la prenderò con il manager. Allora parlate con il manager, ma lasciate stare i giornalisti di questo gruppo. E che marroni. È un mondo difficile e vita intensa. Rimandatela su YouTube, non me ne frega una mazza. Allora, borsa adesso, ogni tanto, no? Anche le formiche, più 0,46% Milano la chiusura, più 0,13% Francoforte, più 0,25% Parigi, più 0,30% Londra, più 0,30% anche il Dow Jones. Ne parliamo dopo il meteo. Focus Economia. Allora, Cina e acciaio. Perché Cina? Perché oggi è uscito il dato sul PIL del terzo trimestre, un po' che non ce ne occupiamo, sappiamo che le preoccupazioni sulla mancata crescita, come vorremmo, a livello globale, riguardano anche la Cina, oltre che Sud America. Il PIL viene confermato al 6,7%, perché dico confermato? Perché il governo a inizio anno, il governo di Pechino, ha fissato un obiettivo compreso per il 2016 tra il 6,5% e il 7%. Poi vedremo la qualità di questo PIL, perché mi sembra che sia trainato soprattutto dal mercato immobiliare e il rischio bolla lì è sempre in agguato. E poi parliamo di Cina anche perché se ne sta occupando Bruxelles, La Commissione europea ritiene che gli strumenti di difesa commerciale dell'Unione sull'eccesso, o meglio sul rischio che la sovrapproduzione d'acciaio cinese inondi il mercato europeo, è altissimo, e ricordo che 10 giorni fa Bruxelles ha deciso un dazio provvisorio tra il 13 e il 22% proprio sull'acciaio proveniente dalla Cina. La Cina, con 800 milioni di tonnellate l'anno, produce metà di tutto l'acciaio mondiale. Complessivamente al mondo si producono 1 miliardo e 600 milioni di tonnellate, ma il problema vero sono le accuse di dumping, cioè di produzione di vendita sotto prezzo di costo. Allora, Rita Fatiguso, corrispondente del Sole 24 Ore, in collegamento da Pechino. Buonasera Rita, o buonanotte per te. Ciao, in realtà. Ciao, no, vabbè, buonanotte fino a un certo punto, perché in realtà qua si lavora, perché sempre. La Cina dà sempre da lavorare, sempre. Ahimè. Sempre. Anche quando, come oggi dicevi giustamente Sebastiano, in qualche modo si potrebbe anche tirare un mezzo respiro di sollievo. Vi ricordate la settimana scorsa il tracollo della bilancia commerciale? Certo. È stato veramente un qualcosa che poi ha trascinato tutte quante le borse e soprattutto ha rivelato una fragilità del sistema appunto reale cinese, per cui questo dato del PIL in effetti sì, consolante, potrebbe anche dare spazio a altre manovre positive per stabilizzare l'economia, ma quanto sarà vero? Il problema è, come sapete, strutturale, anche per quanto riguarda la reale come dire, rispondenza dei dati a quanto realmente succede nel mercato e comunque nell'economia. Il secondo tema che lanciavi è esattamente collegato a questo, cioè la sovracapacità, che non è soltanto quella dell'acciaio, è una zavorra per tutto il sistema cinese e non si riesce a venirne fuori. Esatto. Perché, e adesso arriviamo anche alla parte dell'acciaio, però volevo andare un attimo sulla qualità di questa crescita economica, nel senso che il 6,7 rientra nell'obiettivo del governo di Pechino. Però guardando il dato viene fuori che è il settore immobiliare più 40% i prezzi al metro quadro, mentre frena l'industria e il calo delle esportazioni, tu lo ricordavi, il meno 10%. Allora non c'è il rischio che sia una crescita economica tra virgolette drogata dal settore immobiliare, dal mattone? No, non ti sento, un attimo, la riprendete per favore? Pronto? Hola. Eccoci. Io ci sono. Dicevo, sicuramente nelle scorse settimane c'è stata una sorta di cortocircuito, perché molti governi locali hanno in qualche modo introdotto dei limiti, insomma, perché il mercato appunto si stava surriscaldando, e anche perché non è assolutamente un elemento positivo il fatto che giovani coppie, che comunque, cioè chi veramente ha bisogno di una casa, non riesca a raggiungere questo obiettivo. Questo crea un malcontento a livello sociale enorme e quindi si è cercato di mettere anche a livello locale, quindi anche nelle città di seconda e terza fascia, che dovrebbero essere meno surriscaldate, degli elementi per mettere in riga il mercato e riportarlo su dei binari più logici anche per quanto riguarda l'intero sistema. Ma questa cosa è assolutamente molto difficile da fare, perché ormai, diciamolo, dove è possibile investire in Cina? E si ritorna pian piano ai soliti strumenti, ai soliti canali, quindi c'è una forte pressione speculativa sul settore immobiliare, che si era un po' distolto perché si era riportato appunto sul discorso azionario, però sappiamo che anche il mercato azionario ai suoi limiti li ha mostrati. Certo. Ampiamente, vi ricordate agosto dell'anno scorso? Mm-mm. C'è stato quel tracollo terribile che ha portato a in fumo 5 trilioni di insomma, una cifra 5 enorme miliardi, che è andata sì. In fumo. Allora, dopo... Per cui sicuramente sì. È gonfiata questa cifra. Quanto e come dovremmo chiederlo proprio a quelli dell'Istituto di Statistica, che sono sicuramente il terminale di tutta una serie di decisioni che fanno e il anche loro lavoro. E anche di pressioni in Cina, non solo di decisioni. Allora, dopo il traffico invece, nel ringraziare per averci raggiunto in collegamento anche chi rappresenta e studia da sempre il mondo dell'acciaio italiano, Emanuele Morandi, che è presidente di Siderweb, e quindi ogni anno organizzate il Made in Steel, l'appuntamento più importante per l'acciaio italiano. Buonasera Morandi. Buonasera, dottor Barisoni. Dopo il traffico, la posizione cinese sull'acciaio e soprattutto quella europea, visto che Katainen oggi è intervenuto, ma non solo lui. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Minuti. Allora, Morandi, che cosa chiedete? Non voi come diciamo, mondo dell'acciaio italiano, ma è Eurofer, l'associazione dei prodotti dei produttori di siderurgia a livello europeo, perché se ho ben capito l'accusa è che le importazioni dalla Cina sono cresciute a un ritmo superiore a quelle dei consumi, più 24%, facendo crollare i prezzi a circa 400 euro a tonnellata. E solo in Italia nei primi sei mesi dell'anno sono arrivate 3 milioni di tonnellate d'acciaio piano, e questo soprattutto, poi ci spiega magari perché l'acciaio piano, quello più sotto i riflettori, a fronte di una produzione interna di 6 milioni di tonnellate, cioè il 50% della nostra produzione. I dazi sono al 13/22%, che cosa chiedete? Ecco, c'è in questo momento in atto una spinta molto forte rivolta alla, soprattutto al Consiglio europeo del 20 e del 21 ottobre, che dovrebbe fornire indicazioni molto precise e importanti su come l'Europa intende muoversi per la difesa, diciamo, della propria industria, ma in particolare dell'industria siderurgica, che è quella particolarmente penalizzata. C'è stata anche in questi giorni, l'avete riportato molto bene sul Sole, anche la lettera dei 58 top manager a livello siderurgico, tra cui appunto i nostri Antonio Bozzi, Giovanni Arvedi, eccetera, che spingono per diciamo una revisione di tutta la politica commerciale nei confronti della Cina. Ecco, dal punto di vista mio siderurgico, la Cina in effetti non è appunto un'economia di mercato. Noi la definiamo un'economia di Stato sussidiata, perché nel nostro settore abbiamo accettato molto bene tutti i dati, sono veramente perfetti, abbiamo veramente un'invasione di prodotti cinesi. Ma all'interno di un'economia di mercato ci potrebbe stare. Perché la Cina non è un'economia di mercato? Ricordiamo che non rispetta 4 dei 5 principi fondamentali, ma ricordo soltanto alcune cose per cui la Cina sta mettendo in difficoltà tutta la siderurgia, ma non soltanto tra l'altro dell'Europa, anche di tutti gli altri paesi. Ci sono arrivati su 27 provvedimenti presi, praticamente 11 riguardano la Cina, e sulle questioni di trade remedy praticamente 17 su 20 riguardano la Cina. La Cina interviene per trasformare le proprie aziende da aziende che producono commodity, acciai speciali, e le finanzia, da sussidi sull'energia e sul gas, da sussidi all'occupazione. Ecco, e poi ricordiamolo, non rispetta, è il dumping dal punto di vista non solo commerciale, e questo è pesante, ma anche dal punto di vista ambientale e sociale. Certo. Beh, insomma, il messaggio è molto chiaro, Rita Fatiguso, nel concludere, perché ho un minuto. Insomma, c'è un dumping commerciale sui prezzi, ma c'è anche il dumping: se tu non devi rispettare le normative nostre, hai aiuti, sussidi che da noi verrebbero chiamati aiuti di Stato e quindi resi impossibili da Bruxelles. Insomma, il tema c'è tutto. La Cina sta a guardare o sta prendendo le contromisure? Ma la Cina cerca di far la voce grossa all'esterno, ma ha di guai grossissimi in casa, e questa cosa purtroppo non viene fuori. Mi riferisco anche a Morandi, di cui apprezzo anche comunque lo sforzo e comunque so da tempo di tutto quello che stanno facendo, però la Cina all'interno suo ha veramente è entrata in una sorta di loop, non riesce a uscire e a veramente tagliare la produzione riconvertendola. Il timore di lasciare per strada milioni e milioni di persone, quindi di affrontare le conseguenze sociali di queste decisioni li porta a spostare sempre di più, anzi a spostare le lavorazioni anche dell'acciaio in zone impensabili, rifacendo da capo gli stessi errori. Io ho avuto la possibilità di parlare con un ingegnere non italiano, ma che lavora nel capo dell'acciaio, che mi ha rivelato un po' di queste cose qui. Quindi è entrata in una sorta di tunnel nel quale lei stessa non riesce non a uscire. Non sa come tagliare il loop, come tu l'hai definito. Grazie anche a Rita Fatiguso e buonanotte, visto che è in collegamento da Pechino. Grazie anche a Emanuele Morandi. Andiamo su GR24 e poi, in attesa di diciamo, del segnale da Marte, c'è vita su Marte, parleremo anche della borsa, che ha chiuso in rialzo lo 0,46%. Il segnale orario vi è offerto da tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block, avanti anni luce. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Parliamo adesso di borsa e poi del contributo italiano non indifferente, vale la pena ricordarlo, a questa impresa. Allora, l'impresa si chiama chiaramente Marte. Sto guardando le ultime agenzie. Il numero uno di Thales Alenia Space Italia, Donato Moroso, ha detto: siamo arrivati su Marte, lo dobbiamo semplicemente iniziare a parlarci, cioè devono iniziare a dialogare con il lander, stabilire un ponte. E di questo parleremo, dell'Under Schiaparelli, che, ripeto, alle 16.48 dovrebbe, stante tutte le indicazioni, aver raggiunto il suolo di Marte. La prima comunicazione che darà, diciamo, la conferma che tutto quanto è andato bene dovrebbe arrivare alle 18.33 minuti. Ma andiamo sulla borsa, e quindi da Marte alla borsa. Più 0,46% Milano, più 0,25% Parigi, più 0,13% Francoforte, più 0,30% Londra, e in questo momento lo 0,30% anche guadagno del Dow Jones. Di nuovo forte Monte dei Paschi, più 7,16% e Popolare Emilia Romagna, ma anche Saipem. I tre titoli al commento di Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera. Vai, Eleonora. Sì, e per quanto riguarda MPS, come hai detto tu, rimane sempre sotto i riflettori dopo il consiglio di amministrazione che si è tenuto ieri. Consiglio di amministrazione che ha confermato che si va avanti con il piano su cui si sta lavorando da mesi. C'è grande attesa ovviamente a questo punto per la presentazione che avverrà lunedì a Milano. Per quanto riguarda le altre banche, si sono messe invece in evidenza le BPER, che hanno fatto più 4,7%. Il prossimo 26 novembre la BPER riunirà l'assemblea dei soci per la trasformazione in società per azioni. In più, proprio oggi, diciamo che l'amministratore delegato Vandelli ha dato benzina alla speculazione, asserendo che c'è un buon rapporto con altre banche. In particolare ha citato la Banca Popolare di Sondrio, che non a caso è salita di oltre il 6%, e il Credito Valtellinese, che sul finale ha fatto più 7,59%, ha detto che ci potrebbe essere qualcosa, anche se ha precisato che al momento BPER non sta trattando con altri istituti. Però ovviamente è partita subito la speculazione che ha... Sì, che è partita da, diciamo, già da sabato, o meglio da lunedì, quando è stata fatta l'operazione popolare di Milano con Banco Popolare. Invece Saipem? Saipem invece, diciamo che è sotto i riflettori, perché innanzitutto sta salendo il prezzo del greggio, e non a caso è andata bene anche la stessa Eni, che sul finale ha fatto più 0,3%. Saipem però ha fatto più 4, soprattutto perché nella cosiddetta conviction buy list di Goldman Sachs. Goldman Sachs ritiene che Saipem sia uno dei titoli migliori da acquistare in questo momento sul mercato. Evidentemente gli investitori ci credono. Ancora, tra l'altro, Banca Intermobiliare è il miglior titolo, più 26%, Gruppo West Italia più 13% secondo, e poi appunto Credito Valtellinese più 7,5%, Monte dei Paschi, l'abbiamo detta, poi c'è Carrefour più 6,40 e la Popolare di Sondrio che tu citavi, e mi riferisco al rialzo del 6,1%. Do in anticipo migliori e peggiori. Peggiori oggi Molmed meno 5,20, come Italia Independent, Fedon meno 3,80, Biancamano meno 3,70, Poligrafici Editoriale meno 3 2,40%. Andiamo su altri titoli invece, per quello che riguarda la, la borsa. Poste Italiane più nel 70%, oggi su Sole 24 Ore c'è l'ipotesi, diciamo, della struttura dell'offerta per Pioneer. Eh sì, infatti ci sono nuovi dettagli, nuove indiscrezioni su, sull'offerta che dovrebbe mettere sul piatto Poste Italiane insieme alla Cassa Depositi e Prestiti. Il Sole 24 Ore dice che saranno offerti circa 3 miliardi o qualcosa in più di 3 miliardi di euro, peraltro le offerte vincolanti, però anche in questo caso non è sicuro, dovrebbero essere presentate a inizio novembre. Inizialmente sembrava che l'offerta più generosa fosse quella di Amundi, qualche giornale ha citato 4 miliardi di euro, ma la stessa Mundi ha precisato che è interessata a Pioneer, però le somme che sono circolate sui, sui quotidiani non sono esatte. Insomma, non resta che vedere poi chi vincerà la partita, e intanto il mercato scommette anche su Poste Italiane, che peraltro comunque, sempre secondo indiscrezioni del Sole 24 Ore, dovrebbe partecipare allo, dovrebbe far partecipare all'operazione la stessa Anima, di cui possiede il 10%. Anima è essa stessa una società che gestisce il risparmio. Oggi in borsa è salita dell'1,2%. Allora, altri titoli, diciamo bene oggi, leggermente bene, il mondo petrolifero sul un prezzo del petrolio, però anche qui attenzione perché oscilla nonostante le decisioni dei paesi produttori, il prezzo del petrolio continua a oscillare parecchio. Oggi è tornato sopra i $50 al barile, a $51,6 al barile, un rialzo di quasi il 3%, se ne sono avvantaggiate, ma nemmeno tanto, Eni più 0,30% in primo luogo. Tra i titoli che cedono invece segnalo anche Moncler meno 0,70%, Terna meno 0,60%, Mediolanum meno 0,50%. Grazie, onorevole Michele, Radio Corriere Sole 24 Ore. Noi, in attesa di avere quella che tutti ci auguriamo, la conferma che tutto è andato bene per quello che riguarda l'under Schiaparelli, cerchiamo di capire, perché è un risvolto molto economico, quale sia il contributo italiano, delle imprese italiane, alla, alla missione ExoMars. Allora... una domanda che mi fa un ascoltatore: che senso ha andare su Marte quando molti italiani devono dormire in auto perché non hanno i servizi essenziali? Senta, con massimo rispetto, ma che senso ha questa domanda, le chiedo io? Cioè, che cosa leghiamo l'investimento fatto in ricerca di nostri gruppi importanti con il fatto che ci sia una difficoltà e un disagio sociale in questo paese? Cioè, se non andiamo su Marte risolviamo un problema dei servizi sociali essenziali? Ma sono due cose che non c'entrano nulla e che vanno risolte distintamente, no? Cioè, evitiamo questa cosa demagogica. Allora, se andiamo su Marte c'è qualcuno che dorme in macchina. Non dorme in macchina perché abbiamo un welfare che evidentemente non lavora come dovrebbe. Ma cosa c'entra la missione Lander Schiaparelli? Comunque, è la prima volta che un veicolo europeo con tanta tecnologia italiana a bordo attraversa l'atmosfera di Marte. La discesa è durata 6 minuti e dovrebbe essere, appunto, dovrebbe, il condizionale d'obbligo, essersi realizzata e concretizzata alle 16.48, ripeto, solo alle 18.33 il segnale dovrebbe arrivare, darci conferma che tutto è venuto regolarmente. E tra l'altro in questi 6 minuti di discesa il lander Schiaparelli raccoglie dati sulla pressione, temperatura, e insomma, che saranno poi analizzati, l'accelerazione, che saranno analizzati scientificamente da Amelia. Cos'è Amelia? Non è la fattucchiera che è Amalia, ma è il progetto di analisi e interpretazione dati gestito dal CISAS di Padova, Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali Giuseppe Colombo, per ricostruire traiettorie, profilo di temperatura, pressione, densità atmosferica degli strati alti fino al suolo marziano. E poi, una volta arrivato sul suolo marziano, ogni 15 minuti manderà un segnale. Poi dovrà spegnere il trasmettitore per risparmiare energia, raccoglierà dati, continuerà a raccogliere dati. E tra l'altro, fino a quel momento lo avranno ascoltato sia la sonda Mars Express dell'ESA che l'orbiter della missione ExoMars, il TGO, TraceGar Orbiter, con una manovra che lo impegnerà per 2 ore e mezzo per entrare correttamente nell'orbita marziana. Ci sono voluti infatti 2 ore e mezzo. E quindi i dati di queste due sonde, tra le 18 e le 18.30, ci diranno se Schiaparelli ha toccato il suolo. E poi ancora, vediamo se mi arriva la notizia. Niente, i segnali che arrivano attraverso le due sonde sono ancora, stanno trasmettendo segnali di analisi complessa. L'analisi sarà completata non prima delle 18.30, quest'ultimo flash di agenzia, e il centro di controllo della missione si trova comunque in Germania, a Darmstadt. Ma l'Agenzia Spaziale Europea ci sta comunicando che l'analisi è ancora molto complessa. E l'Italia, dicevamo, ha giocato un ruolo di primo piano con l'Agenzia Spaziale Italiana, principale contributore, 350 milioni di euro, pari al 32% del valore complessivo della missione, che costa ai paesi europei 1 miliardo e 300 milioni. Quindi Leonardo Finmeccanica contribuisce fornendo molte delle tecnologie a bordo di ExoMars, i generatori fotovoltaici, le unità per la trasformazione e la distribuzione della potenza elettrica, gli utilizzatori del satellite, le schede di distribuzione della potenza elettrica sviluppati nel sito di Nerviano in provincia di Milano. A Campi Bisenzio invece, in provincia di Firenze, Leonardo ha realizzato per ExoMars i sensori di assetto che consentono al TGO e quindi alla sonda di orientarsi nello spazio, e il cuore optronico dello strumento di osservazione Cassis. E nel 2020, prossima missione, il ruolo di Leonardo Finmeccanica sarà ancora maggiore, come ha confermato il direttore del settore spazio Luigi Pasquali al microfono del nostro Gerardo Pelosi. Effettivamente nel 2020 il contributo di Leonardo, che si associa chiaramente alle altre realtà industriali del nostro gruppo che hanno sviluppato la missione, è legato ad un laboratorio che sarà imbarcato sul rover, che ha lo scopo fondamentale e più importante della missione, che è quello di avere la risposta al grande interrogativo se c'è vita su Marte. Questo laboratorio è molto sofisticato, sarà dotato di un driller, di un trapano, una trivella, per usare un termine semplice, che penetra il terreno marziano di fino a 2 metri, e quindi estrae alcuni campioni e li esamina localmente con una serie di strumentazioni particolarmente sofisticate, e il risultato di queste elaborazioni, che ovviamente ci auguriamo o comunque sia l'obiettivo è quello di capire se c'è vita sul pianeta, sarà trasmesso a terra. E qui anche c'è un contributo di Leonardo, perché l'infrastruttura di comunicazione, telecomandi e telecontrolli da terra sul pianeta Marte è garantita dalla componente di telespazio. Allora, sì, mi scrivono alcuni ascoltatori rispetto alla domanda dell'ascoltatore precedente. È più corretto dire che alcuni italiani non dormono in macchina grazie a progetti come questo, perché vorrei ricordare che sono progetti che servono alla nostra industria, si chiama industria dell'aerospazio difesa. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il professor Giovanni Bignami, astrofisico, divulgatore scientifico, ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Buonasera Bignami. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, il traffico, poi ascoltiamo anche il numero uno di Thales Alenia Space Italia, chiaramente Donato Amoroso, però prima il traffico. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Focus Economia. Mamma mia, che musica marziana. Vabbè, allora andiamo ad ascoltare anche Donato Amoroso, sempre a microfono il nostro Gerardo Pelosi, sulle risorse impiegate e la complessità di questa operazione a cui Thales Alenia Space Italia ha contribuito non poco. Complessa perché tutte le volte che si bisogna dimostrare di riuscire a tenere in un progetto così articolato tanti altri attori, coordinarli attraverso la complessità e le difficoltà significa avere un'esperienza significativa nel campo, significa di avere un credito internazionale. E questi sono valori che non si costruiscono e non si possono neanche improvvisare. Noi vantiamo a questo riguardo un'esperienza da oltre 30 anni e quindi sul campo poi dell'esplorazione con i nostri specialisti del sito di Torino in particolare ne rivendichiamo una competenza assoluta. Quando diciamo complessità, diciamo che noi come pre-incontrato già nel nostro Thales Alenia Space, nel nostro ambito, abbiamo coordinato attività da 7 siti diversi, perché oltre a Torino ci sono L'Aquila, Milano, Kant, c'è addirittura Madrid, c'è Charleroi e ci sono anche, come dire, a livello di sistema forniture importanti che vengono da Leonardo Finmeccanica. Quindi in questa fase riusciamo anche a fare un sistema tutto italiano per cercare di guidare. Il nostro team, se vogliamo dare qualche altro numero, è un team che ha visto impegnate circa 200 persone in Italia, ma quasi il doppio sulla parte globale come TAS. Ci sono praticamente le 130 attività e 74 diciamo sottocontraenti, 17 paesi, insomma una cosa particolarmente impegnativa e complessa. Allora, professor Bignami, in maniera chiara, sintetica, insomma, ci aiuta a capire perché è così importante questa missione, ma anche, essendo un programma di economia, perché è così importante che imprese, gruppi, sono d'accordo, vi sono anche fornitori, subfornitori di piccole e medie imprese, italiani vi partecipino? Beh, è una decisione che abbiamo preso un bel po' di anni fa, una decina di anni fa, quando la missione è partita, decidendo appunto all'epoca di impegnare una percentuale di risorse che, come lei ha già detto, è circa tre volte quella che normalmente l'Italia impegna in una missione europea. E l'abbiamo fatto proprio perché, da un lato, abbiamo una comunità scientifica planetologica, diciamo, particolarmente brava, brillante a livello internazionale, dall'altro perché in parallelo abbiamo una comunità industriale, prima fra tutti tra la Serenia Space, Leonardo eccetera, però anche molte altre. Per esempio, mi faccia dire che il paracadute che ha portato giù Schiaparelli è fatto in Italia da una relativamente piccola ditta che si chiama Aerosecur ed era un punto di single failure, come si dice, single point failure. Se non si apriva paracadute, la missione sarebbe stata persa. È un rischio. Sì, anche abbiamo... questa, per esempio, ha dato lavoro ai dipendenti di questa impresa. Non lo dico a chi continua a rompermi sul fatto meglio spendere. Ci sono italiani che dormono in macchina, ma non sono unite le due cose. Comunque, ma che cosa? Voglio dire, la società funziona così, no? Gli scienziati buttano alle industrie delle sfide che al primo momento sembrano impossibili, perché se uno lo guarda, dopodiché invece le industrie si organizzano e riescono a fare questi prototipi fantastici, finanziati dai cittadini, ricordiamo, perché i soldi sono tutti soldi pubblici delle nostre tasse, ricordiamo, e sono ben spesi, perché così facendo qualifichiamo l'industria e abbiamo un ritorno che migliora la qualità della vita anche di quelli che dormono in macchina, che pur in macchina hanno sicuramente il telefonino, sì, e il telefonino è fatto sicuramente utilizzando tecnologie che derivano anche dall'attività. Ma da sempre la ricerca scientifica ha visto nella parte pionieristica, lei parla di prototipo, la ricerca vera e propria, la ricerca pura, e poi la ricerca viene applicata anche al nostro vivere quotidiano. Detto ciò, però, è chiarita l'importanza anche per l'Italia di esserci in maniera così presente. Che cosa potrebbe arrivare anche qui come ricaduta, non solo, diciamo, per chi studia il mondo dell'astrofisica e delle esplorazioni spaziali, ma come ricaduta concreta da questo tipo di nuove esplorazioni? Per fare un esempio banale però molto appropriato in questi casi, il problema delle trasmissioni, no? Trasmettere informazione, trasmettere dei segnali, come fa per esempio alcuni dei protagonisti che abbiamo sentito prima, sono degli specialisti in questo senso, migliorano, cioè Marte in questo momento è mezzo miliardo di chilometri, ricordiamo, no? Cioè molto lontano da noi, essere capaci di trasmettere bene dei segnali complicati, per esempio delle immagini, dei dati eccetera su distanze così grandi, poi ci permette di essere bravissimi a fare quella cosa di cui tutti noi viviamo, che è la trasmissione di dati, telefono, televisione, internet eccetera. Un esempio proprio facile. Ecco, la missione del 2000 è in attesa che arrivi la conferma, ripeto, dovrebbe arrivare a minuti. La missione del 2020 invece di cosa si occuperà? La missione 2020 sarà, diciamo così, quella vera. Questa era un primo giro in cui Lander Schiaparelli, pur nella sua ricchezza, però è un oggetto relativamente compatto e semplice, che durerà pochi minuti perché non ha pannelli solari, funziona solo a batterie. Ecco, per esempio, anche lo sviluppo di batterie avanzate è fondamentale per la vita di tutti i giorni, naturalmente. Quella prossima invece sarà molto più spettacolare come lander, potrà muoversi, potrà fare, come diceva Pasquali prima, un buco per terra a 2 metri di profondità, tirar su della terra magari umida, assaggiarla e capire se per esempio dentro ci sono dei microorganismi. Sarebbe una scoperta mondiale di cui andare molto fieri. Però su quello dovremmo aspettare il 2020, invece fra pochi minuti, se tutto va bene, dovrebbe arrivare il segnale, o meglio, ripeto, la trasmissione del segnale è già arrivata, ma l'analisi è ancora in corso. Ha ragione l'ascoltatore, ci mancherebbe, chiedo venia, che dice: guardi che il problema non è tecnico, ho abituato alla radio, al segnale radio, ho usato il termine è sbagliato, ma è fisico, perché è legato alla velocità della luce e quindi dei segnali. Ha ragione, chiedo venia a lei e anche al professor Giovanni Bignami. Perché? Perché è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Barisoni, l'augurio di una buona serata in attesa appunto di Schiaparelli. Radio 24. La passione si sente.